Siamo esseri divini. Siamo Dio nella carne. Siamo il creatore del destino. Siamo proprio questo. Essere più grandi dei nostri corpi. Trascendere la nostra realtà attuale e andare oltre il tempo. Questo significa che siamo i padroni del nostro corpo. Siamo i padroni del nostro ambiente. E i padroni del tempo. Now, e adesso riuscite a diventare consapevoli of the space dello spazio between tra your eyes i vostri occhi in space nello spazio. Riuscite a percepire l'energia dello spazio tra i vostri occhi nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio tra le orecchie nello spazio e riuscite a percepire il volume dello spazio tra le vostre orecchie nello spazio. Riuscite a posizionare la vostra consapevolezza nello spazio tra la lingua e la parte posteriore della gola nello spazio. Riuscite a percepire l'energia dello spazio che la vostra gola occupa nello spazio. riuscite a diventare consapevoli dello spazio oltre your head, la vostra testa, in space, dietro la testa, nello spazio. Riuscite a percepire l'energia dello spazio. Dietro your head, la testa, in space, nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio intorno le vostre orecchie, nello spazio. Riuscite a percepire l'energia dello spazio dietro le orecchie, nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio oltre la vostra gola, nello spazio. E riuscite a sentire l'energia dello spazio intorno al collo, nello spazio. E riuscite ora a notare lo spazio intorno alle vostre spalle, nello spazio. Riuscite a percepire l'energia dello spazio oltre le vostre spalle, nello spazio. spazio. Beyond. Oltre. Your back. La vostra schiena. In space. Nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dell'energia dello spazio oltre la vostra colonna vertebrale nello spazio. Riuscite a notare l'energia dello spazio intorno al vostro torace nello spazio. E riuscite a sentire il volume dello spazio oltre il vostro cuore nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio oltre i palmi delle mani nello spazio. Riuscite a sentire l'energia dello spazio intorno alle vostre mani nello spazio. Riuscite ora a notare l'energia dello spazio oltre le vostre gambe nello spazio. Riuscite ora a percepire il volume dello spazio intorno alle vostre gambe nello spazio. a percepire lo spazio oltre your feet, i vostri piedi in space. Nello spazio. Riuscite a sentire il volume dello spazio intorno ai vostri piedi nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio che tutta questa sala occupa nello spazio. Riuscite a percepire il volume dello spazio che tutta questa sala occupa nell'intero spazio. Riuscite a sentire il volume dello spazio che tutto lo spazio occupa nello spazio. Diventare nessuno, nessuna cosa, nessuna persona, nessun luogo, nessun tempo. Il momento di investire la vostra coscienza nell'ignoto, e più rimarrete con la vostra consapevolezza nell'ignoto e più trarrete delle possibilità verso di voi. E se vedete che la vostra mente osserva ciò che è familiare, ciò che è noto, il passato, il futuro. Semplicemente tornate al presente e liberate la vostra energia liberatela nel vuoto delle potenzialità totali. Diventate una consapevolezza nelle possibilità. Rimanete presenti. Thank you. qual era quel primo potenziale su cui volevate sintonizzarvi nel campo di tutte le possibilità. Riuscite a cambiare la vostra energia e trasformarla nell'energia di quel potenziale e spostatevi in un nuovo stato dell'essere. Riuscite a insegnare al vostro corpo come si sta a essere emotivamente abbracciati a quello stato dell'essere. Vivete quel futuro e fate le prove, pianificate chi volete essere e come volete vivere da quello stato dell'essere. Cosa state osservando nel vostro futuro? Queste sono le vostre mappe del destino che comandano la materia dalle possibilità. Benedite quel futuro con la vostra energia. Abbandonate la vostra creazione a una mente più grande e lasciate che questa mente esegua tutto. fatto nel modo giusto per voi. Abbandonate, abbandonate, lasciate. Piantando un seme nella possibilità. Ora, qual era il secondo potenziale che volevate scegliere nel campo quantico? È arrivato il momento di cambiare la vostra energia in modo che sia corrispondente a quel potenziale. Spostatevi in un nuovo stato dell'essere. Chi volete essere? E come vi sentireste? Riuscite a insegnare al vostro corpo emotivamente come ci si sente a essere in quel futuro? Trasmettendo tutta una nuova firma elettromagnetica. Per quello che trasmettete al campo, quello che trasmettete di certo è il vostro destino. E più vi abbandonate in quello stato dell'essere, più il vostro corpo verrà attratto verso un nuovo destino. Dai, sentitelo. Bello. E ora è arrivato il momento di vivere quel futuro. Comandando la materia dall'energia, facendo le prove su quello che farete in questo nuovo stato dell'essere. Immagini sono gli schemi, sono le piantine del nuovo futuro. E benedire queste immagini con una nuova mente, con la vostra energia che vi troverà lì in qualche futuro. E ora abbandonate la vostra creazione a una mente più grande e lasciate che sia lei a organizzare in un modo che sia perfetto per voi. Lasciate andare e abbandonatelo a una coscienza più grande. Emulare il divino come creatore significa essere il divino. Prendete la mano sinistra e mettetela sul cuore. E voglio che benediciate il vostro corpo in modo che venga sollevato verso una nuova mente. E benedicete la vostra vita. Infatti è un'estensione della vostra coscienza. E benedicete il vostro passato che è diventato saggezza. E benedicete il vostro futuro in modo che non sia più il vostro passato. E benedicete le vostre avversità così che possiate essere illuminati. Benedicete la vostra anima perché vi risveglierete e vedrete oltre il velo. Benedicete il divino perché si avvicinerà a voi. Perché lo avete invitato a spostarsi dentro di voi, a spostarsi attraverso voi e spostarsi tutto intorno a voi e far vedere le prove della sua stessa esistenza nella tua vita. Così che vi perdoniate e perdonate gli altri e liberate così l'energia. Così troverete il sorriso, la gioia nella vostra vita. Così troverete contemplazioni più profonde. strive to serve others. Così cercherete e farete del vostro meglio per servire gli altri. That you conquer weakness. Così conquisterete la debolezza, fear, la paura and limitation. E la limitazione. E il vostro cuore fiorirà come un grande fiore. E questa nuova vita la vivrete dall'amore. Se il pensiero manda segnali verso l'esterno e il sentimento riporta indietro l'evento, ebbene voglio che vi spostiate verso quello stato di gratitudine. Aprite il cuore e ringraziate per questa nuova vita. E insegnate al vostro corpo emotivamente cosa si prova ad avere tutti i propri desideri soddisfatti. E più vi indugerete in questa gratitudine, e più sarete come una calamita verso il vostro destino. Perché la gratitudine è lo stato più alto di ricezione. E la sua firma significa che già è successo. Dai, sentitelo. Essere innamorati della vita. Essere nobili. Essere arricchiti dalla propria creazione. Scoprire il mistero di chi siamo. Questo è il dono. E adesso portate la vostra consapevolezza in un nuovo corpo, in un nuovo ambiente, in un nuovo tempo. E quando siete pronti, potete aprire gli occhi. E voglio che troviate qualcuno vicino a voi, che lo abbracciate e riempitelo di questa fantastica, meravigliosa energia.